Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Londra ha diffuso le identità di due dei tre attentatori, Kuran Bhatt, 27 anni, originario del Pakistan, e Rashid Redouane, 30 anni, marocchino o libico. Uno era apparso in un documentario sulla Jihad. A tre giorni dal voto inglese, Corbyn chiede le dimissioni della May. Torino, la procura indaga sui fatti di sabato notte in Piazza Castello, non ancora individuato il motivo che ha scatenato il panico tra la folla. Appendino ammette mancati controlli sui venditori abusivi di alcol. Minniti, stop a eventi senza sicurezza. Rina è malato e ha diritto a una morte dignitosa. La Cassazione apre al differimento della pena per il capo di Cosa Nostra in carcere dal 1993, che oggi ha 86 anni e diverse malattie. Legge elettorale, l'accordo regge in commissione sul modello tedesco, domani il testo in aula. Crisi tra i paesi del Golfo, Egitto, Emirati, Arabia e Bahrain isolano il Qatar per i suoi legami col terrorismo. L'America media, dal Qatar nuovi raid anti-ISIS. Eccoci qua, buonasera da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, con il racconto delle notizie della giornata di oggi. Cominciamo subito da Londra, dove, come avete sentito dai titoli, sono stati identificati due dei tre attentatori. Uno di loro era anche apparso in un documentario sulla Jihad. Si tratta di Kuran Bhatt, 27enne, originario del Pakistan, e di Rashid Redouane, 30 anni, sulle cui origini c'è ancora il dubbio se siano di origine marocchino o libico. La premier Theresa May torna a dire che il mondo libero si trova sotto attacco, ma il leader laburista, che cercherà di vincere le prossime elezioni proprio contro la May, invoca le dimissioni del primo ministro per i tagli fatti alle forze dell'ordine nel periodo in cui la May era ministro dell'interno. Intanto il presidente americano Trump attacca ancora il sindaco di Londra Khan per il suo invito alla calma. Però nella capitale britannica soprattutto vanno avanti le operazioni di polizia. Sentiamo. In ginocchio sul prato di Regent's Park, alcuni musulmani srotolano la bandiera nera del califfato e invocano Allah Akbar. Tra loro uno dei terroristi uccisi nell'attacco di sabato. Sta anche qui, in questi fotogrammi di un documentario di Channel 4, un indizio per ricostruire la rete dei killer di London Bridge. E sta qui pure uno degli errori dell'antiterrorismo anglosassone, a cui almeno uno dei tre killer era stato già, ma invano, segnalato proprio per i suoi indizi di radicalizzazione. E mentre si ricostruiscono volti e storie delle vittime, si compongono anche le vite dei tre killer. Uno aveva una carta d'identità irlandese, origini marocchine, sposato con una donna scozzese, aveva vissuto per un po' a Dublino. Ancora una volta, le indagini di questo attentato hanno un baricentro principalmente interno, ricorda il capo di Scotland Yard, Chris Rida Dick, mentre si setacciano quartieri di periferia e già 11 persone sono state fermate. L'obiettivo, individuare eventuali fiancheggiatori e scoprire il background dell'attacco, chiarisce, mentre loggia il poliziotto che in abiti civili ha provato a fermare gli attentatori ed è rimasto ferito. Ma proprio i poliziotti e i progressivi tagli ai loro fondi ora finiscono per dividere ulteriormente la Gran Bretagna alla vigilia del voto. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E torneremo su questo argomento tra poco, andando a Londra per valutare anche quale impatto avranno queste notizie sulle imminenti elezioni britanniche dell'8 di giugno. Invece in Italia, a Torino, la procura indaga ancora, per in questo caso, per eventuali omissioni in relazione ai fatti di sabato notte in Piazza San Carlo, con 1500 persone che sono rimaste ferite in seguito al panico che si è scatenato, non si sa ancora in seguito a quale fatto. Il sindaco di Torino Appendino, oggi in consiglio comunale ha detto che durante l'evento è mancato un controllo stretto soprattutto sulla vendita di alcolici in bottiglia da parte dei venditori abusivi. Migliorano intanto le condizioni anche del più piccolo dei feriti, che è rimasto travolto nella folla. I fatti di Piazza San Carlo credo che abbiano profondamente colpito tutti, non solamente perché un momento di festa si è trasformato in terrore e sofferenza, ma perché la ragione resta ancora ignota. Come spiega il sindaco Appendino, non c'è ancora alcun indizio su cosa possa aver innescato il panico sabato sera in Piazza San Carlo Torino. Non un urlo, un petardo, un rumore, un odore sospetto è stato segnalato dai testimoni. Anche il ragazzo a torso nudo, fermo mentre la gente scappa, non è risultato centrale con il procurato allarme. Certo, molti dei giovani in piazza erano ubriachi e proprio per la vendita senza restrizioni di alcolici anche in bottiglie di vetro che hanno ferito la gran parte dei fuggitivi e per la massiccia presenza dei venditori abusivi, ora il comune è sotto accusa. Ancora il sindaco. L'evento ha seguito una prassi ormai consolidata. Ha precisato inoltre che anche in eventi recenti non sono stati adottati ulteriori provvedimenti di limitazione alla vendita di alimenti o bevande in vetro lattine. La vendita di bevande alcoliche in futuro sarà al vaglio del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, ha spiegato Appendino, attaccata dalle opposizioni, a cominciare dall'ex sindaco Fassino, secondo cui la gestione dell'evento sabato sera è stata affrontata con superficialità. Nel pomeriggio Beppe Grillo sul suo blog si è dissociato dal senatore 5 Stelle Airola, che ieri aveva parlato di numeri farlocchi per attaccare Appendino. Su quanto accaduto sabato sera, la Procura di Torino ha aperto un procedimento penale per lesioni plurime anche gravissime. Il fascicolo, a carico di ignoti, riguarda anche possibili omissioni. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poco fa il ministro dell'Interno Marco Minniti ha rilasciato una dichiarazione piuttosto tranchant di fronte ai feriti di Torino e chi è ancora in ospedale. L'impegno che dobbiamo prendere è creare le condizioni perché certi fatti non succedano più. Dunque, se non ci saranno requisiti di sicurezza in futuro, non ci saranno nemmeno gli eventi. Sentiamo. Di fronte ai feriti di Torino, di fronte a quello che è avvenuto, l'impegno che dobbiamo prendere, che devono prendere le istituzioni di questo paese, questo sì coralmente, e creare le condizioni perché non succedano mai più quelle cose che sono avvenute. Tuttavia ci deve essere un principio di piena complementarità tra il privato e il pubblico, con un punto che deve essere molto chiaro. Noi lavoriamo perché sia garantito il massimo standard di sicurezza. Di fronte al fatto che l'evento non garantisce il livello massimo di sicurezza, è chiaro che l'evento a quel punto può non farsi. E allora abbiamo aperto questa edizione di Effetto Notte con gli aggiornamenti sulle indagini da Londra dopo l'attentato di sabato notte e per quanto riguarda la situazione internazionale. Oggi c'è una notizia importante perché proprio per i suoi legami con il terrorismo sapete che 4 paesi del Golfo Persico hanno preso le distanze interrompendo le relazioni diplomatiche con il Qatar. Uno sviluppo che dà luogo a molteplici letture, viste anche gli investimenti economici che il Qatar ha in molti paesi occidentali. Allora cominciamo con la cronaca e poi l'analisi di Alberto Negri. Isolato politicamente e geograficamente, il Qatar si è risvegliato con i ponti tagliati da parte dei paesi vicini, tra cui Arabia Saudita, Bahrain, Emirati Arabi Uniti ed Egitto, che lo hanno accusato di destabilizzare la regione appoggiando gruppi terroristici quali l'ISIS. L'Arabia, con la quale il Qatar ha in comune l'unico confine terrestre, lo ha chiuso, dando ai residenti qatarioti sul suo territorio 2 settimane per lasciare il paese. Egitto ed Emirati Arabi hanno invece concesso 48 ore ai diplomatici qatarioti per andarsene, mentre compagnie aeree quali Etihad ed Emirates hanno annunciato la cancellazione dei voli da e per la capitale Doha. La crisi diplomatica cova sotto le ceneri da tempo, in realtà frutto anche delle tensioni tra Riad e Doha, ed esplode a 2 settimane dalla visita del presidente americano Trump in Arabia Saudita. Gli stretti rapporti del Qatar con l'Iran ha finito nel mirino di Trump, insieme all'ambiguo ruolo giocato dai qatarioti nella lotta al terrore, con l'appoggio alla coalizione anti-ISIS da una parte e le accuse di sostenere le milizie islamiste in Siria dall'altra, sono le motivazioni principali della mossa. Curiosamente anche l'Arabia Saudita è stata accusata di finanziare indirettamente il terrorismo islamico, in quanto non impedire che le donazioni partano da Riad in direzione della Siria. L'aeronautica militare americana ha annunciato che continuerà a compiere raid anti-ISIS dalla base in Qatar, mentre la FIFA sta valutando la patata bollente. Tra 5 anni il Qatar ospiterà i mondiali di calcio. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'isolamento del Qatar da parte dell'Arabia Saudita, degli stati del Golfo e dell'Egitto è la conseguenza del viaggio di Donald Trump a Riad il 19 maggio. Il presidente americano ha abbracciato la visione di Riad che mette sullo stesso piano la lotta ai jihadisti dell'ISIS con quella alla Repubblica Islamica dell'Iran. In cambio di 110 miliardi di dollari di commesse militari, gli Stati Uniti hanno praticamente venduto la testa dell'emiro Altani, che potrebbe rischiare la sorte del padre Ahmad, l'uomo che aveva inventato il Qatar con Al Jazeera, una politica estera indipendente. Per questo fu costretto dalle pressioni saudite ad abdicare in favore del figlio nel 2013. Le accuse al Qatar di appoggiare il terrorismo potrebbero essere rivolte ugualmente anche all'Arabia Saudita e alle altre monarchie del Golfo. Quindi per i sauditi si tratta di trovare un capro espiatorio del terrorismo jihadista per poter contrastare il vero rivale nel Golfo, l'Iran. Le monarchie del Golfo hanno perso la guerra contro il regime di Damasco, sostenuto da Iran, Russia ed Hezbollah libanesi, e ora cerca una rivincita bloccando l'influenza della Repubblica Islamica. Gli Stati Uniti e l'Occidente devono stare attenti. Un'altra ondata di instabilità nel Golfo avrà un prezzo salato in termini bellici, di terrorismo, ma anche sotto il profilo economico e finanziario. E adesso cambiamo argomento, come detto anche nei titoli, parliamo del capo di Cosa Nostra, Totò Riina. Il diritto a morire dignitosamente va assicurato a ogni detenuto, anche al capo di Cosa Nostra che si trova in carcere dal 1993, così la Cassazione apre al rinvio della pena. Sentiamo. Esiste un diritto di morire dignitosamente che deve essere assicurato al detenuto, anche se porta il nome di Totò Riina. Per la prima volta la Cassazione ha accolto il ricorso del difensore del capo dei capi che ha chiesto per il proprio assistito il rinvio dell'esecuzione della pena o la detenzione domiciliare. La richiesta era stata respinta dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna, che però, secondo la Suprema Corte, nel motivare il proprio no, non ha considerato il complessivo stato di malattia del detenuto. Riina ha un tumore ai reni, versa in una situazione neurologica altamente compromessa e soffre di una grave cardiopatia, un quadro clinico che non ha spinto il Tribunale di Bologna a ritenere la sua infermità fisica incompatibile con la detenzione in carcere. Ora la Cassazione ha chiesto ai giudici di verificare e motivare se lo stato di detenzione carceraria comporti una sofferenza di tale intensità da andare oltre la legittima esecuzione della pena. Sottoposto al regime di 41 bis e capo dell'ala stragista di Cosa Nostra, Totò Riina fu l'uomo che sferò l'attacco allo Stato nella stagione del 92, mandante o esecutore materiale di diversi omicidi, oltre che il regista delle stragi di Capaci e Via D'Amelio. Adriano Palazzolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Torna libero Serif Seferovic, indiziato di essere l'autore del rogo di Centocelle a Roma, nel quale, ricorderete, sono morte tre sorelline. Gli indizi di colpevolezza non sono sufficienti per la sua permanenza in carcere. È per questo che Serif Seferovic torna libero, anche se rimane comunque indiziato per il rogo di Centocelle. La decisione del GIP Alessandra Daniele del Tribunale di Torino, che ha sì convalidato il fermo, ma non ha accolto le richieste di misura cautelare della Procura di Roma. Soddisfatto il legale Gianluca Nicolini, che spiega come si sia arrivati al fermo del suo assistito. È una questione di ostilità tra queste due famiglie, dall'altra c'è tutta la questione relativa alle immagini estrapolate, che comunque riprendevano un uomo alto e magro come El Seferovic, ma questo non è sufficiente a dire che sia stato lui. Non si può escludere, spiega infatti lo stesso giudice, che il soggetto ripreso possa essere un altro, magari appartenente allo stesso gruppo familiare. Il ventenne Rom ha infatti 12 fratelli e il furgoncino di Renato, uno di loro, sarebbe compatibile con quello degli autori del rogo. Decisivo a questo punto potrà essere il confronto che avverrà domani tra le impronte di Serif con quelle trovate sulla bottiglia Molotov con la quale è stato appiccato l'incendio. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Regge l'accordo tra Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Forza Italia e Lega sul testo di una nuova legge elettorale, come sapete, sulla base di un modello tedesco, legge che domani sarà in aula alla Camera. Tempi rispettati ma progetto mutato. La legge elettorale approda in aula alla Camera dopo il sì della Commissione Affari Costituzionali. Germanichellum Offianum, dal nome del relatore PD, comporta collegi uninominali con riparto proporzionale, sbarramento al 5%, liste bloccate da 2 a 6 candidati, quote di genere per il 40%, no capilista, no pluricandidature. Soddisfatto il presidente della Commissione Andrea Mazziotti. Non era semplice finire in tempo con un dibattito completo e articolato, visti i tempi che ci aveva fissato la capigruppo, molto stretti, troppo stretti, e adesso si va in aula. Regge il patto tra PD, Forza Italia, Lega e Movimento 5 Stelle. Danilo Toninelli. Io non parlerei di fiducia, io guardo i fatti, leggo le carte. Ad oggi c'è una legge elettorale costituzionale, è soprattutto merito del Movimento 5 Stelle. Ma già si levano le prime proteste sul voto anticipato. Per il leader di Articolo 1, Pierluigi Bersani, a settembre è un atto da irresponsabili. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E adesso ci fermiamo per le informazioni sul traffico, torniamo tra pochissimo. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Londra diffuse le identità di 2 dei 3 attentatori, un 27enne originario del Pakistan e un 30enne originario del Marocco o della Libia. Uno di loro era apparso in un documentario sulla Jihad. Torino, la procura indaga sui 1500 feriti di Piazza Castello, non ancora individuato il motivo che ha scatenato il panico. Il sindaco appendino ammette mancati controlli sui venditori abusivi di alcol. Il ministro dell'interno Minniti dice stop a eventi senza sicurezza. Riina è malato e ha diritto a una morte dignitosa. La Cassazione apre al differimento della pena per il capo di Cosa Nostra in carcere al 93 e oggi malato. Legge elettorale, l'accordo regge in commissione sul modello tedesco. Domani il testo in aula. Crisi tra i paesi del Golfo, Egitto, Emirati, Arabia e Bahrein isolano il Qatar per i suoi legami con il terrorismo. E allora torniamo come anticipato a Londra, perché avete sentito la cronaca anche dai titoli, mentre le indagini vanno avanti e si sono scoperte, sono state diffuse le identità di due dei tre terroristi sicuri, i legami con l'ISIS almeno in un caso, ma tutto da valutare invece è la situazione politica con il leader laburista Corbyn, che chiede prima del voto le dimissioni del primo ministro Theresa May, che quando era ministro dell'interno, secondo l'accusa di Corbyn, ha tagliato fondi alle forze dell'ordine. E queste sono alcune delle notizie che vengono da Londra. Noi andiamo con Leonardo Maisano. Buonasera Leonardo, corrispondente del Sole 24 Ore da Londra. Ciao, ben ritrovato. Buonasera a voi. Allora, la domanda diretta è naturalmente quello che tutti si stanno chiedendo: che impatto potranno avere queste notizie, questo ennesimo attentato a Londra sulla campagna elettorale agli sgoccioli? Mancano naturalmente ormai due giorni, ma i sondaggi fra l'altro continuano a dire che Theresa May è un po' in difficoltà. Sì, Theresa May è in difficoltà rispetto alle attese, alle aspettative, diciamo, di fine aprile, quando aveva 20-25 punti di vantaggio sull'opposizione laburista. In realtà i fatti, diciamo, di questo weekend e di Manchester hanno, nella percezione generale, come dire, agevolato il ritorno e il consenso sul premier uscente, perché per tradizione il Partito Conservatore è considerato il partito che meglio sa gestire le crisi, perché Theresa May è un ex ministro degli interni e perché è il primo ministro in carica. Quindi meglio la continuità in una situazione di crisi piuttosto che il salto, diciamo così, nel vuoto, nell'incertezza, eccetera. In realtà poi i laburisti se la sono giocata molto bene, perché hanno denunciato, come dire, hanno ributtato su Theresa May le responsabilità di questa, tra virgolette, diminuita sicurezza. E quindi bisognerà vedere come l'opinione pubblica percepirà questi eventi. La sensazione generale è che comunque Theresa May riuscirà in qualche modo ad incassare il beneficio politico di questa tragedia, ovviamente al di là della sua volontà, ma voglio dire, rappresenta la continuità e rappresenta, come dire, dei punti di riferimento importanti. È un fatto comunque che negli ultimi anni la spesa al Ministero degli Interni, sia ai servizi di controspionaggio, sia a Scotland Yard e alla Metropolitan Police sono diminuiti. Questi sono diminuiti nell'ambito di un taglio generale della spesa pubblica che Cameron aveva varato, l'allora primo ministro, nel quadro, come dire, del risanamento che era necessario fare dopo il 2008. Difficile stabilire chi ne godrà di più, tra virgolette godrà ovviamente, però questo è il quadro ad oggi. Grazie Leonardo Maisano da Londra, corrispondente del Sole 24 Ore. Staremo a vedere fatto questo che ha pesato per esempio anche sulle recenti elezioni francesi, dove il candidato vincente Macron, il neo presidente, ha in campagna elettorale promesso invece l'assunzione di 10.000 nuove forze dell'ordine, quindi un tema che sicuramente influenzerà la campagna elettorale. Ancora quel che resta, due giorni in Gran Bretagna. Continuando a parlare di scenari legati al terrorismo, scenari internazionali, siamo alla notizia di quest'oggi dell'isolamento diplomatico creato dall'Arabia, gli Emirati, il Bahrain e l'Egitto nei confronti del Qatar. È con noi Arturo Varvelli, responsabile dell'osservatorio sul terrorismo dell'ISPI. Buonasera. Buonasera. Allora, la prima cosa che le vorrei chiedere, Varvelli, è se questa notizia giunge un po' come un fulmine a ciel sereno, oppure se c'erano già state delle avvisaglie, se si poteva immaginare che accadesse una cosa del genere. Ah, diciamo che la decisione è stata presa in maniera repentina, quindi era difficile aspettarselo così velocemente. D'altra parte è però vero che le relazioni tra il Qatar e gli altri membri, diciamo, del Gulf Cooperation Council, a partire dall'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti, sono molto difficili da almeno il 2011, cioè da quando in realtà il Qatar, l'emiro del Qatar Al Thani e, diciamo, la televisione Al Jazeera hanno appoggiato mediaticamente, finanziariamente e politicamente una parte di mondo arabo che pensavano in qualche maniera vincente e confacente alla loro posizione politica. E mi rifaccio in particolare all'Islam politico e alla Fratellanza musulmana, che in qualche maniera è stata supportata lungo tutta una fase, almeno fino al 2012-2013. Sì. Ecco, però sì, i Fratelli musulmani sono un conto, l'ISIS è un altro. Io la domanda che le vorrei fare, in parte stava già rispondendo, questi legami col terrorismo di cui parlano i quattro paesi del Golfo che hanno preso le distanze dal Qatar, ci sono, esistono, sono accertati? Il Qatar, lo ricordiamo, parliamo di una minuscola penisola, grande più o meno quanto l'Abruzzo, ricchissima di gas naturale, un paese che ospiterà i mondiali di calcio del 2022, un paese che ha investimenti in tanti paesi, compresa l'Italia, del mondo. La vicinanza con i Fratelli musulmani è un dato, ma i legami con il terrorismo, con l'ISIS, ci sono? Sono in qualche modo documentabili? Beh, innanzitutto se pensiamo che la descrizione, la definizione che ne fanno di terrorismo questi quattro paesi include la Fratellanza musulmana, allora la risposta dovrebbe essere sì. In realtà il Qatar non è uno dei maggiori finanziatori di ISIS, di Daesh e di Al-Qaeda, bisogna essere sinceri. Il Qatar però tiene delle posizioni che sono in qualche maniera non allineate a quelle di Arabia Saudita e di Emirati Arabi. Non è un caso che questa decisione sia stata presa una settimana, una decina di giorni dopo il viaggio di Donald Trump in Arabia Saudita. In questo viaggio sostanzialmente Trump che cosa ha dato? Ha dato una sorta di carta bianca all'Arabia Saudita, o così almeno i sauditi hanno percepito. Sono tornati a esercitare un asse fondamentale, sono tornati a essere un pivot dell'area per gli Stati Uniti, in qualche maniera sono stati investiti di un ruolo pacificatore, virgolettiamo questo pacificatore, nell'area, sì. E lo interpretano a loro maniera. La prima interpretazione che ne danno i sauditi è quella, come dire, di fare un ripulisti in casa, il che vuol dire che bisogna in qualche maniera riallineare il Qatar sulle posizioni ortodosse saudite. Ecco, e questo sì, naturalmente è una politica molto muscolare in questa maniera, ma che ha questa finalità. Ecco, così inquadrato questa presa di posizione, inquadrata anche nel recente viaggio di Trump in Medio Oriente, un riallineamento quindi nei confronti dell'Arabia Saudita, e invece un allontanamento rispetto all'amministrazione Obama nei confronti dell'Iran, sicuramente questo spiega un po' di strategia in questo isolamento nei confronti del Qatar da parte di quattro paesi del Golfo. Però, rovesciando la questione, le voglio chiedere, l'Egitto in questo momento non è sicuramente un regime saldamente democratico, l'Arabia Saudita è un paese accusato invece di avere finanziato moschee, anche in questo caso, e centri islamici estremisti in Europa, un paese non molto tollerante con le altre religioni, per esempio. Possono questi paesi di per sé essere credibili nella lotta all'ISIS e al terrorismo? Secondo me non lo sono. Non lo sono per una motivazione fondamentale. Questi paesi, esattamente questi paesi, cioè paesi autoritari, paesi che non permettono, come dire, non solamente lo sviluppo di una democrazia, che forse è difficile in questa fase storica in Medio Oriente, in questi paesi stessi, ma non permettono neanche nessun tipo di rappresentatività della popolazione. Sono regimi esclusivi, sono regimi autoritari, ed è proprio, sono queste proprio le, come dire, le basi fondamentali sulla quale Daesh, Al-Qaeda e tutte le forze jihadiste fanno presa per poter dire che non vi sarà mai uno sviluppo democratico nel paese e che loro sono assolutamente l'unica soluzione ai regimi filo occidentali che stanno alla base della devastazione del popolo arabo musulmano. Quindi più reiteriamo, diciamo, la forza di questi paesi o l'apparente forza di questi paesi, perché sappiamo benissimo, l'abbiamo visto nel 2011, che questi paesi non sono realmente forti, sono paesi che non hanno una base di rappresentatività ampia e che quindi certo. si sorreggono sulla violenza, esattamente, e che quindi da un momento all'altro potrebbero cadere, si potrebbero ricreare le stesse identiche condizioni sociali, politiche, economiche che hanno portato al rovesciamento di questi regimi nel 2011. Quindi più reiteriamo, diciamo, la forza o la presunta forza di questi regimi, più diamo un'arma di propaganda alle organizzazioni jihadiste di vario tipo. Grazie Arturo Varvelli, responsabile dell'Osservatorio sul terrorismo dell'ISPI. Grazie per essere stato con noi. Buona serata. Rientriamo in Italia per commentare una notizia, uno dei titoli principali della giornata di oggi, perché la Cassazione ha aperto ad un differimento della pena nei confronti di Totò Riina. Salutiamo, buonasera a Nino Amadore. Buonasera. Il Sole 24 Ore da Palermo. Ciao Nino, ben ritrovato. Allora, non è ancora una decisione, si tratta in realtà di una possibilità. Chi dovrà prendere eventualmente questa decisione e quali sono le motivazioni che aprono a questo differimento di pena per Totò Riina, che insomma, è un termine, un gioco di parole che però vuol dire lasciare il carcere, un fatto simbolico che sarebbe molto importante, perché Riina, ricordiamo, è capo di Cosa Nostra in galera dal 2006. Riina dal 93, no, che dico? Dal 93, dal 93, certo. Scusate, un po' di stanchezza. La questione è abbastanza netta per come la scrive la Cassazione. Cioè, sì. Riina è malato, ha delle neoplasie, non ragiona più, insomma è ritenuto quasi in fin di vita, non proprio in fin di vita, ma comunque molto malato. Ha 86 anni, ricordiamolo, insomma, anche questo. È anziano e quindi non è in condizioni di nuocere, almeno questo dicono loro. E dunque, come titolano un po' i giornali, ha diritto a una morte dignitosa, cioè quindi diciamo anche rispetto al ricorso che è stato fatto dai suoi avvocati, si capisce che il capo di Cosa Nostra insomma ha i giorni un po' contati. Ovviamente non è la Cassazione che decide, ma dovrà essere il Tribunale di Sorveglianza di Bologna in questo caso a decidere sul differimento o meno, cioè se accogliere o meno le richieste degli avvocati, però tutto questo, diciamo, anche le motivazioni, perché è molto interessante questa presa di posizione della Cassazione, anche le motivazioni fanno parecchio riflettere, perché al di là del dato giudiziario che riguarda il capo di Cosa Nostra, quindi la sua vicenda giudiziaria, pone dei problemi che riguardano l'imputato, il carcere e a cosa serve il carcere. Perché noi stiamo parlando, non dobbiamo dimenticarlo, dell'uomo che ha deciso a tavolino o meno la morte di centinaia di persone, compresi i giudici Falcone, Borsellino e le stragi successive. Quindi non è una questione abbastanza grave. Io vi posso raccontare di un episodio che stasera ho vissuto direttamente per far capire ai nostri ascoltatori quanto è forte il dibattito. C'era il ministro, l'ex ministro Claudio Martelli a Palermo oggi per parlare giusto di Falcone. Io gli ho chiesto cosa ne pensasse di questa sentenza, di questa decisione della Cassazione, e lui ha detto: sono d'accordo, mi sembra un fatto giusto che debba un uomo così ormai alla fine dei suoi giorni avere questo tipo di trattamento. Di fronte a lui c'era la mamma di Claudio Domino, che è un bambino ucciso dalla mafia, e la sua immediata reazione è stata: ministro, l'ha chiamato proprio ministro, non mi deluda. Quindi si capisce quanto questo, diciamo, quale spaccatura, quale dibattito, quale tipo di confronto certo. può aprire questo, diciamo, questo questa della Cassazione. Credo che sia anche importante, perché punto di vista è che noi dobbiamo comunque fare i conti come paese, come cittadini, con la nostra storia, con anche gli aspetti più duri, più tragici della nostra storia, e forse questa è un'occasione per poterne parlare. Ricorderai che lo stesso tipo di dibattito si è aperto quando si trattò di decidere su Bruno Contrada, che era il numero 3 del SISD, che era accusato di mafia, che ha fatto anni di galera. Assolutamente, certo. E che poi, diciamo, venne accolta la domanda di differimento della pena, diciamola così. Quindi su cui, diciamo, sulla cui responsabilità ancora si continua a dibattere. Bene, grazie anche a te Nino Amadore, grazie da Palermo. Queste dunque le notizie che arrivano proprio dalla città, e anche per quanto possibile il commento su questa notizia che, ripetiamo, è l'apertura da parte della Cassazione, non ancora una decisione, ma sarà il Tribunale del Riesame di Bologna a decidere eventualmente su un differimento della pena per Totò Riina, che quindi ha di fronte a una grave malattia, 86 anni, probabilmente gli rimangono, come diceva Nino Amadore da Palermo, pochi giorni di vita, potrebbe abbandonare il carcere di massima sicurezza nel quale si trova rinchiuso dal 1993. Sono le 21:34 minuti, facciamo una piccola pausa, c'è anche il meteo, poi torniamo tra pochissimo. 349-238-6666 per i vostri sms, anche su WhatsApp. Vuoi conoscere le dinamiche e tutti gli aspetti professionali del mondo della radio? Autore, redattore, conduttore, produzioni audio e declinazioni web e social. Se una di queste è la tua strada, sintonizzati e frequenta il Master Part-Time in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. Un percorso innovativo per fornire strumenti professionali a chi ha iniziato o vuole iniziare a lavorare nel mondo della radio. A tua disposizione i massimi esperti del settore per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci qua, 21:39 minuti, buonasera, ben ritrovati da Alessio Maurizi, cari ascoltatori. Adesso parliamo dell'accordo sulla legge elettorale, sul modello tedesco, accordo che regge in commissione, dove sono state apportate alcune modifiche, e domani il testo dovrebbe essere in aula alla Camera. È con noi Danilo Toninelli, deputato del Movimento 5 Stelle. Buonasera Toninelli. Buonasera, buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora, tutti partiti d'accordo, già una novità positiva, battute a parte. Cosa spinge il Movimento 5 Stelle a sostenere questa proposta e come funzionerà il modello tedesco, diciamo, nel passaggio in Italia, quindi nel passaggio alla frontiera? Si perderà qualcosa, si conquisterà forse qualcos'altro? Come funzionerà il sistema elettorale? Allora, innanzitutto il Movimento 5 Stelle dice sin dal 4 dicembre, data della debacle di Renzi e della Boschi sul referendum, di andare a votare subito. Questo è uno strumento, un viatico per farlo, e siamo soddisfatti, le dico, dell'immenso lavoro fatto, che ha portato a che cosa? Dopo 12 anni di leggi elettorali incostituzionali, perché ricordiamoci che il centrodestra nel 2005 ha approvato il Porcellum e il centrosinistra di Renzi pochi mesi fa, un anno fa, ha approvato l'Italicum, entrambi incostituzionali. Oggi possiamo dire di non essere di fronte alla nostra legge ideale, perché la nostra ce l'abbiamo, non ce l'hanno voluta mai approvare, ma una legge elettorale chiaramente costituzionale. Questo è già un buon risultato. Noi siamo riusciti in questi giorni di lotta, mi crede, di lotta giorno e notte, a ottenere delle cose molto buone, cioè via le pluricandidature insopportabili, antidemocratiche, e via i capilista bloccati. Quindi possiamo dire di essere soddisfatti da un modello tedesco, un partito che prende intorno al 40%, potrebbe avere una crescita esponenziale abbastanza ampia di seggi. Noi cercheremo in aula di inserire dei correttivi di governabilità che diano la quasi matematica certezza a una forza politica col 40% di governare da sola. Più di così non so. Ecco, cosa questo mi sembra ottenere un punto importante. Un sistema elettorale con collegi uninominali, dove i più votati saranno eletti direttamente dagli elettori, e dove però con i listini proporzionali si farà un recupero, quindi garantendo anche una rappresentatività in termini proporzionali dei vari partiti. Però quali scenari prefigura? Scenari di alleanze, scenari politici? Perché Lei dice il 40% potrebbe essere il numero magico, la soglia raggiunta la quale un partito potrebbe avere la garanzia di ottenere la maggioranza dei seggi. È questo che potrebbe accadere? Ma guardi, io le faccio l'esempio della Germania. Partito della Merkel, ultime elezioni, quindi quasi 4 anni fa, 41%, con il fatto che c'è un 5% di sbarramento, che cosa significa? Che tutti i partiti che prendono meno del 5% non portano seggi a casa e li danno al partito primo arrivato. Certo, si concentrano sui principali. Ha preso il 49%. Noi se mettiamo dei correttivi, che è una roba semplice, è un calcolo matematico differente che trasforma i voti in seggi. Non siamo ancora riusciti a farlo digerire alle altre forze politiche. Domani si va in aula, dopodomani ancora cercheremo in aula di mettere questo correttivo. Noi, siccome non abbiamo alcuna visione positiva delle altre forze politiche, noi siamo nati per sostituire, non perché siamo più bravi, ma certamente perché pensiamo ai cittadini. Mm-hmm. Vogliamo far sì che corriamo da soli, ovviamente, e per noi non è un sogno il 40%. Noi siamo una forza politica sempre più radicata sul territorio, vogliamo raggiungerlo, e con questo ulteriore correttivo matematico le dico che 2 o 3 punti in più rispetto a quanto ha preso la Merkel prendendo 41, sì, col 49% di seggi ce la faremo. Io spero che acconsentano gli altri, altrimenti gli diremo che se non accettano queste nostre richieste di modifica costituzionale vuol dire che stanno già pensando alle larghe intese. Mi pare abbastanza naturale. In assenza di queste modifiche, con la legge così com'è, al di là di quello che potremmo definire il suo ottimismo della volontà, cioè di raggiungere un 40% da parte vostra, domanda secca: se sì, non raggiungeste questa soglia del 40%, ma foste comunque, come dicono i sondaggi, il primo partito in Italia, provereste ad allearvi o rinuncereste a formare un governo? Io le rispondo dicendo, anche se dovessimo prendere il 37%, con questo sistema potenzialmente potremmo avere il 45-46% dei seggi. E lei pensa che il Presidente della Repubblica non dà il mandato a formare un governo, una maggioranza, con una forza politica che da sola ha il 46-45-47%? Cioè ci mancherebbero 20-30 parlamentari su 630 per governare. Io penso che non ce lo darebbe, noi questi parlamentari li avremmo, li troveremmo, di gente che sposa il nostro programma, non che sposa, che mette insieme due forze politiche completamente diverse, sposa il programma e governiamo. Chiaro, mi sembra una risposta chiarissima, grazie Danilo Toninelli, onorevole del Movimento 5 Stelle. Queste dunque le notizie sul sistema elettorale, la legge sul nuovo sistema elettorale che domani sbarca alla Camera. Adesso invece parliamo di quanto accaduto sabato notte a Torino. Mi riferisco in particolare alla cospicua presenza di venditori abusivi di bevande in contenitori di vetro e metallo, anche all'interno dell'area delimitata, nonostante i controlli e le sanzioni elevate. Piaga ormai endemica dei grandi eventi organizzati in questa e in tante altre città. Questo grave problema può essere efficacemente affrontato solo grazie ad ulteriori azioni di prevenzione e repressione, che devono essere necessariamente condivise da tutte le forze dell'ordine. Ecco, così il sindaco di Torino Chiara Appendino questo pomeriggio è intervenuta in consiglio comunale sui fatti di sabato scorso, sabato notte, quando, lo sapete, durante la proiezione sul maxischermo della partita della finale di Champions c'è stato quello che c'è stato, oltre 1500 feriti. Il sindaco sostanzialmente ha tirato in ballo le forze dell'ordine, ha detto tocca anche a loro garantire la sicurezza in una serata, in un evento come quello, ma insomma di fatto comune e questura però hanno insieme la responsabilità di avere gestito un evento in quella piazza senza garantire i dovuti controlli per quanto riguarda la vendita abusiva di bottiglie di vetro con dentro degli alcolici, che si stanno rivelando di fatto la vera causa di così tanti feriti. Allora noi ne vogliamo parlare con chi è abituato a trovarsi in questo genere di situazioni, non queste situazioni, ma in mezzo alle ordinanze sulla vendita di alcolici, per esempio, e parlo della Federazione Italiana Pubblici Esercizi. Il presidente Enrico Stoppani è con noi, buonasera. Buonasera, grazie per l'ospitalità. E allora, il sindaco tira in ballo la questura, il questore ha detto addirittura che c'è una ordinanza che è incostituzionale, quella che vieta il ricorso, l'utilizzo, la vendita del vetro. Al di là di questo, i venditori in quel caso sabato sera erano abusivi perché non dovevano esserci. Quindi io le chiedo, ci sono 1000 ordinanze, però poi gli abusivi trionfano, ci sono troppo pochi controlli, sono troppo scarsi i controlli, le pattuglie della polizia e dei vigili urbani in situazioni, in eventi o anche in serate ordinarie dove c'è vendita di alcolici? Beh, guardi, è certamente un problema di controlli, ma anche, a mio avviso, un problema anche di carattere generale. Allora, innanzitutto devo precisare che c'è stata una cattiva gestione della manifestazione, insomma, perché non c'è stata un'ordinanza, e con un'ordinanza si avrebbero potute imporre quelle che sono normalmente le cose che si fanno in queste situazioni. Vale a dire, per esempio, l'obbligo di somministrare non in bottiglia ma in bicchieri di plastica, come succede in queste situazioni, perché mi sembra di aver capito che 1200 feriti siano stati causati soprattutto dal tappeto di vetro che si era sì, generato. Però a quanto risulta sono stati venduti abusivamente, cioè sì, non sì, sono stati okay, controllati questi venditori abusivi. Quello dell'abusivismo è uno dei due fattori scatenanti di queste situazioni. Ma c'è anche da riconsiderare gli effetti delle eccessive liberalizzazioni. Oggi abbiamo consentito a tutti di fare tutto, per cui cosa succede? Che nei centri storici, a posto dei pubblici esercizi che hanno una etica, che hanno una esperienza, che hanno una storia, che hanno una cultura sull'uso dell'alcol, nascono una serie di mini market che vendono soprattutto alcol sì, senza grandi scrupoli e con l'obiettivo ovviamente di fare business. Per cui su questi argomenti certamente contrastare i fenomeni dell'abusivismo, l'abusivismo è anche concorrenza sleale. Inevitabilmente occorrono delle pattuglie, occorrono tante forze dell'ordine, perché altrimenti è inutile mettere le ordinanze, che me lo insegna lei. Ci vogliono delle sanzioni verso queste persone per gestire. Senta, ma il questore Angelo Sanna di Torino parla addirittura di una ordinanza che sarebbe incostituzionale, quella che vieta la diffusione di vetro, di alcolico venduto in vetro. Le risulta una cosa del genere? No, vabbè, adesso certamente questore sa più di me sicuramente, però ultimamente c'è stato il decreto della sicurezza che assegna alle amministrazioni pubbliche sì, maggiori possibilità e libertà di decisione di limitare quello che è per determinate situazioni di tutela ambientale, tutela monumentale, di ordine pubblico, di chiudere le attività, di darle dei vincoli soprattutto sugli orari oppure sulle modalità di somministrazione dell'alcol. Bene, grazie per essere stato con noi Rico Stoppani, presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, buona serata, grazie. Grazie a voi, grazie. Gondrand Arte e Fiere, i professionisti per le vostre esposizioni. Scopri di più su gondrand.it. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Oggi si celebra la giornata mondiale dell'ambiente in tutto il mondo e anche in Italia una serie di eventi. In Italia il ministro dell'ambiente Galletti ha detto la posizione americana è antistorica, sicuramente preoccupa in ambiente, o si vince tutti o si perde tutti. Da Bologna dobbiamo lanciare un messaggio unificante non solo in merito alle posizioni americane ma anche per quello che sta succedendo in Europa. Così Galletti si è espresso a Bologna nell'incontro Reporter per la Terra, uno degli eventi che tra l'altro accompagnano il G7 e l'ambiente che si tiene proprio a Bologna in questi giorni. Salutiamo, buonasera, Damiano Di Simine, buonasera Legambiente, buonasera, coordinatore buonasera della campagna People for Soil, una campagna di Legambiente che quest'anno state portando avanti. Prima di arrivare a questo però, Di Simine, questa giornata dell'ambiente si celebra proprio all'indomani della decisione di Trump di disdettare gli accordi di Parigi. Allora la buona notizia forse è l'Europa, la Cina che confermano invece di andare avanti? Sì, diciamo la pessima notizia è che il multilateralismo, che finora sembrava essere quello che guidava gli accordi sul clima, ha un bruttissimo colpo dall'altra sponda dell'Atlantico. Come sempre succede in queste grandi crisi, c'è sempre un'opportunità, e l'opportunità in questo momento se la gioca l'Europa, che può tornare a svolgere un ruolo guida nelle politiche ambientali, in particolare per il contrasto al cambiamento climatico. E invece la campagna che proprio in questi giorni, in una serie di eventi, anche oggi con la giornata mondiale dell'ambiente, state rilanciando, perché oltre il clima c'è il vostro impegno sulla questione del territorio, una campagna europea in difesa del suolo. Di che si tratta? Sì, quella sul suolo purtroppo è una sfida ancora in gran parte incompresa. L'Europa, l'Italia hanno compiuto grandi passi sulla legislazione ambientale in materia di acqua, di aria, di tutela della biodiversità, del rischio industriale e quant'altro. È rimasto fuori da tutto il pacchetto del diritto ambientale proprio il tema del suolo. e il rischio è che ci si accorga troppo tardi di non aver intrapreso le necessarie azioni di tutela. C'è una priorità sicuramente che è quella del consumo di suolo, che riguarda in particolare l'Italia, un paese che ha poco territorio, molta popolazione e molta utilizzazione intensa del territorio, soprattutto pianeggiante. Quindi abbiamo elevati tassi di consumo di suolo in tutta la penisola, in particolare lungo le coste e la pianura padana, ma è un problema anche per tutta l'Europa e in generale a livello globale c'è una preoccupazione espressa anche dalle Nazioni Unite riguardo al fatto che il suolo deve essere una risorsa garantita anche per le future generazioni. Non dimentichiamoci che siamo alla vigilia di un nuovo grande incremento di popolazione e il suolo dà da mangiare a tutti. Quindi il tema è oggi affrontare nelle politiche ambientali la difesa del suolo, la conservazione rispetto al degrado ambientale, al degrado del suolo, ma soprattutto in Italia la conservazione rispetto al consumo. Per questo noi chiediamo una direttiva europea sul suolo e chiediamo che sia il popolo, i cittadini in qualche modo a perorare questa causa con una firma su una petizione europea, su un'iniziativa dei cittadini europei che si firma su salvaelsuolo.it. Grazie Damiano Di Simine, buona serata, grazie per essere stato con noi. E adesso vogliamo parlare anche di sport, perché con la giornata di ieri felice per le moto italiane, per i piloti italiani, guardando con il calcio a mercoledì ritorna la nazionale di Ventura, c'è una bella notizia che riguarda l'under 20 di oggi. Dario Ricci. Sì, insomma, diciamo che a proposito di suolo, la terra sotto i piedi è mancata agli juventini, no? Dopo la sconfitta a Cardiff, quindi gli juventini che stanno tornando in nazionale proprio perché c'è questa amichevole con l'Uruguay, poi domenica la sfida che vale per le qualificazioni a Russia 2018 contro Liechtenstein a Udine. Facile, sì, però intanto vinciamola, perché non si può, è partita di fine stagione, quindi un passo falso sarebbe davvero letale. Ma intanto l'under 20, come giustamente ricordavi Alessio, arriva alle semifinali dei campionati del mondo, battuto lo Zambia per 3-2 ai supplementari, un risultato storico, perché pensa all'ultima volta che ci eravamo affacciati ai massimi livelli di questa competizione, eravamo stati eliminati dall'Ungheria, poi ben 3 edizioni d'assenza e ora finalmente le semifinali, ce la vedremo con l'Inghilterra, grande protagonista, un futuro juventino, Orsolini, che tanto bene ha fatto nell'Ascoli e che già è stato acquistato dalla vecchia signora. Magari con quello che si è visto sabato avrebbe chissà battutaccia fatto anche comodo. No, è troppo giovane, ma sta facendo benissimo, già 4 gol oggi, tra l'altro impresa epica, perché per oltre, dopo appena mezz'ora siamo rimasti in 10 e vittoria proprio con doppia rimonta ai supplementari, e adesso ci tocca l'Inghilterra nell'altra semifinale, Venezuela-Uruguay. Belle notizie per lo sport, per il calcio italiano. Grazie Dario Ricci, grazie a tutti gli ascoltatori. Termina qua questa edizione di Effetto Notte, torniamo tra pochissimo giusto per i titoli, gli aggiornamenti con le ultime notizie.